penso a te, non pensi a me, ti voglio ancora, che non è tardi, anche tu lo sai, un'altra aurora. Non è mai tardi per noi due. Le mie ferite sono anche le tue. E che sbaglio a volte, sì lo so, che faccio errori. Non son perfetto e tu lo sai, troppi timori. Perfetto no, ma in fondo chi lo è? Se sbaglio intanto io vivo per te. Io voglio vivere perché al mondo si può vivere, ma si sta molto meglio in due. Ricominciare se vorrai, abbandonare il caso mai, tornare a esistere noi due. E penso a te, non pensi a me, ti amo ancora. Ma dove sei, dov'è che vai, non ne ho la prova. Si affida a te la vita mia, perché sei tu la vita mia. Che soffro a volte, sì lo so, solo per te, ma mi hai rapito l'anima, vivo per te. Due cuori forti nostri, sai, ma dilaniati casomai. Io voglio vivere perché al mondo si può vivere, ma si sta molto meglio in due. Cantare forte io e te, sognare forte io e te, il tempo che trascorrerà. Io voglio vivere perché al mondo si può vivere, ma si sta molto meglio in due. Ricominciare se vorrai, abbandonare il caso mai, tornare a esistere noi due. E penso a te, non pensi a me, ti voglio ancora.